5. Naturalmente doveva acquistare il tè nella drogheria dello zio Benjamin. Comprarlo da qualsiasi altra parte sarebbe stato impensabile. Eppure Valency odiava recarsi alla drogheria dello zio Benjamin nel giorno del suo 29° compleanno. Non c'era speranza che lui lo dimenticasse. Perché, domandò lo zio Benjamin di sottecchi, mentre le confezionava il tè, le giovani donne sono come delle pessime filologhe? Ah, Valency, tenendo bene a mente il testamento dello zio Benjamin, chiese con mitezza: Non lo so, zio, perché? E lui: Perché non possono declinare il matrimonio? I due impiegati, Joe Hammond e Claude Bertram, ridacchiarono a loro volta e a Valency piacquero ancora meno del solito. Il primo giorno che Claude Bertram l'aveva vista in negozio, l'aveva sentito sussurrare a Joe: Chi è quella? E Joe aveva detto: Valency Sterling è una delle zitelle di Deerwood. Curabile o incurabile? Aveva chiesto Claude con una risatina, trovando evidentemente molto brillante la domanda. Valency si incendiò nuovamente a quel ricordo. 29, stava dicendo lo zio Benjamin. Povero Meadows, sei pericolosamente vicina alla seconda svolta e ancora non pensi a maritarti. 29, sembra impossibile. Poi lo zio Benjamin aggiunse una cosa originale. Lo zio Benjamin disse: Come vola il tempo! Per me scorre lentamente, rispose Valency con fervore. La passione era così aliena alla concezione che lo zio Benjamin aveva di Valency che non seppe come interpretarla. Per mascherare la sua confusione, le fece un altro indovinello mentre confezionava i suoi fagioli. La cugina Stickles aveva rammentato all'ultimo momento che avevano bisogno di fagioli. I fagioli erano economici e saziavano. Quali sono le due età ingannevoli? Chiese lo zio Benjamin e, non aspettando che Valency si arrendesse, tra virgolette, aggiunse: Mirage e mariage. Miraggio e matrimonio, con un gioco di parole francese dove age significa età. Valency tagliò corto mentre prendeva il tè e i fagioli. Al momento non le interessava se lo zio Benjamin l'avrebbe o meno tagliata fuori dal suo testamento. Uscì dal negozio mentre lo zio Benjamin lo osservava a bocca aperta. Poi questi scosse la testa. La povera Doss la sta prendendo male, disse tra sé. Non appena raggiunse il primo incrocio, Valency avvertì un certo dispiacere perché aveva perso la pazienza e non era sua abitudine. Lo zio Benjamin sarebbe stato infastidito e avrebbe probabilmente detto a sua madre che Doss era stata impertinente con me e sua madre le avrebbe fatto la paternale per una settimana. Ho tenuto a freno la lingua per 20 anni, pensò Valency, perché non potevo farlo una volta in più? Ah, essi erano trascorsi 20 anni, riflette Valency, da quando avevano iniziato a stuzzicarla per la sua condizione di donna sola. Ricordava perfettamente quell'amaro momento. Aveva appena 9 anni ed era in piedi da sola nel cortile della scuola, mentre le altre ragazzine della sua classe stavano facendo un gioco nel quale, prima di iniziare, i ragazzi dovevano scegliersi la propria compagna. Nessuno aveva scelto Valency, la piccola, pallida Valency dai capelli neri, con il compassato grembiule a maniche lunghe e gli strani occhi a mandorla. Oh! Le aveva detto una graziosa ragazzina. Sono così spiacente per te, non hai un corteggiatore? Valency, con tono di sfida, le aveva risposto ciò che avrebbe continuato a rispondere per 20 anni. Io non voglio un corteggiatore. Ma questo pomeriggio Valency cessò una volta per tutte di dire una cosa del genere. Ho intenzione di essere onesta con me stessa, nonostante tutto, pensò adirata. Le critiche dello zio Benjamin mi feriscono perché sono vere. Io voglio sposarmi, voglio una casa tutta mia, voglio un marito tutto mio, voglio dei dolci bimbi grassocci, tutti per me. Atterrita dalla propria audacia, Valency si fermò. Era certa che il reverendo dottor Stolling, che le stava passando accanto proprio in quel momento, le avesse letto nel pensiero e disapprovasse interamente il suo sentire. Valency aveva paura del dottor Stolling, lo temeva da quando in una domenica di 23 anni prima era venuto per la prima volta a St. Albans. Valency aveva fatto tardi per il catechismo quel giorno, era entrata in chiesa timidamente, si era seduta alla panca di famiglia. Non c'era nessuno in chiesa, nessuno eccetto il nuovo rettore, il dottor Stolling. Lui si era alzato di fronte alla porta del coro, le aveva fatto un cenno e aveva detto in modo austero: Ragazzino, vieni qua. Valancy si era guardata attorno. Non c'era alcun ragazzino, non c'era nessuno ad eccezione di lei in tutta quell'enorme chiesa. Questo strano individuo con gli occhiali blu non poteva riferirsi a lei. Lei non era un ragazzo. Ragazzino? Aveva ripetuto il dottor Solling ancora più seriamente, scuotendo ferocemente l'indice nella sua direzione. Vieni immediatamente qua. Valancy si era alzata come ipnotizzata e si era incamminata su per la navata. Era troppo terrorizzata per fare qualsiasi altra cosa. Che cosa terribile stava per accaderle? Era davvero diventata un ragazzo. Si era fermata dinanzi al dottor Stalling, il quale aveva agitato l'indice verso di lei, un indice lungo e nodoso, e aveva detto: "Ragazzino, togli il cappello". Valancy si era tolta il cappello, aveva una sottile coda di cavallo che le richiedeva sulla schiena, ma il dottor Stalling aveva la vista debole e non se n'era accorto. "Ragazzino, torna al tuo posto e togliti sempre il cappello in chiesa, ricordalo". Valancy era tornata al suo posto tenendo in mano il cappello come un automa e in quel momento era entrata sua madre. "Dos", aveva detto Mrs. Sterling, "per quale motivo ti sei tolta il cappello? Rimettitelo subito". Valancy se l'era rimesso all'istante. Il timore che il dottor Stalling la convocasse di nuovo di fronte a sé la raggelava. Sarebbe dovuta andare, naturalmente. Non le era mai passato per la mente che si potesse disubbidire al rettore. E la chiesa adesso era piena di gente. Oh, che cosa avrebbe fatto se quell'orribile, lancinante indice l'avesse di nuovo redarguita di fronte a tutte quelle persone? Valancy era rimasta seduta, agonizzante di terrore, per tutta la celebrazione ed era stata male per tutta la settimana successiva. Nessuno aveva saputo il perché Mrs. Frederick si era lamentata di nuovo per la figlia delicata. Il dottor Stalling aveva scoperto il proprio errore e ne aveva riso con Valancy, che invece non aveva fatto altrettanto. Non aveva mai superato il terrore per il dottor Stalling e adesso essere da lui sorpresa all'angolo della strada con tali pensieri. Valancy trovò il libro di John Foster, La magia delle ali. Il suo ultimo, tutto sugli uccelli, disse Miss Clarkson. Aveva quasi deciso di tornarsene a casa anziché andare dal dottor Trent. Il coraggio le mancava, aveva paura di offendere lo zio James, paura di far arrabbiare la madre, paura di affrontare il rude vecchio dottor Trent dalle sopracciglia ispide che le avrebbe probabilmente detto, così come aveva detto alla cugina Gladys, che il suo problema era del tutto immaginario e che le faceva piacere averlo. No, non sarebbe andata via, avrebbe invece preso una boccetta di pillole color porpora della Redfern. Le pillole della Redfern erano la medicina standard del clan Sterling. Non avevano forse curato la cugina di secondo grado Geraldine quando cinque medici si erano arresi? Valancy era sempre molto scettica riguardo alle virtù delle pillole color porpora. Potevano tuttavia contenere qualcosa ed era più facile prendere quelle che affrontare il dottor Trent da sola. Avrebbe dato un'occhiata ai giornali nella sala lettura per alcuni minuti, dopodiché se ne sarebbe tornata a casa. Valancy tentò di leggere una storia, ma si infuriò. Su ogni pagina c'era l'immagine dell'eroina circondata da uomini adoranti, ed ecco lei, Valancy Sterling, incapace di trovarsi un solo ammiratore. Valancy chiuse con rabbia la rivista e aprì La magia delle ali. I suoi occhi caddero sul paragrafo che cambiò la sua vita. La paura è il peccato originario, scriveva John Foster. Quasi tutto il male del mondo trae origine dal fatto che qualcuno ha paura di qualcosa. È un freddo e viscido serpente che si avviluppa attorno a te. È orribile vivere con la paura, ed è la cosa più degradante al mondo. Valancy chiuse La magia delle ali e si alzò. Sarebbe andata dal dottor Trent. 6. Il Calvario non fu così spaventoso dopo tutto. Il dottor Trent fu rude e brusco come al solito, ma non le disse che il suo malessere era immaginario. Dopo aver ascoltato i suoi sintomi e averle posto alcune domande, le fece una breve visita e restò seduto per un istante a osservarla piuttosto intensamente. A Valancy parve dispiaciuto per lei. Trattenne il respiro per un istante. Si trattava di qualcosa di serio. Oh, sicuramente non poteva essere. In effetti, Non le aveva dato troppo fastidio, soltanto di recente c'era stato un lieve peggioramento. Il dottor Trent aprì bocca, ma prima che potesse parlare, il telefono che aveva vicino al gomito emise un suono acuto. Alzò la cornetta. Valency, nell'osservarlo, vide che mentre ascoltava il suo volto cambiò improvvisamente. Lo. Sì! Sì, cosa? Sì! Sì! Un breve intervallo. Mio Dio! Il dottor Trent abbassò la cornetta, si precipitò fuori dalla stanza e salì al piano di sopra senza degnare Valency di un solo sguardo. Lo sentì correre come un pazzo e sbraitare alcune osservazioni a qualcuno, presumibilmente alla domestica. Poi giunse impetuosamente al piano di sotto con in mano la borsa di un club, agguantò il cappello e il cappotto dall'appendiabiti, spalancò la porta che dava sulla strada e si precipitò per la via in direzione della stazione. Valency restò seduta da sola nel piccolo ufficio, sentendosi assolutamente più sciocca di quanto le fosse mai capitato prima. Sciocca e umiliata. Così, questo era il risultato della sua eroica determinazione a vivere secondo i dettami di John Foster e ad accantonare la paura. Non soltanto era un fallimento come parente ed era priva di un qualsiasi innamorato o amico, ma non era di importanza alcuna neppure come paziente. Nell'eccitazione di ciò che aveva udito al telefono, il dottor Trent aveva del tutto dimenticata la sua presenza. Non aveva guadagnato niente nell'ignorare lo zio James e nel sorvolare le tradizioni familiari. Per un momento temette di essere prossima alle lacrime. Era tutto così ridicolo. Poi udì la domestica scendere dalle scale. Valency si alzò e si diresse verso la porta dell'ufficio. Il dottore si è dimenticato di me, disse con un sorriso storto. Oh, beh, è un vero peccato, disse Mrs. Patterson con simpatia. Ma non c'è da meravigliarsi, pover'uomo. Era un telegramma quello che hanno comunicato per telefono da Port Lawrence. Suo figlio è stato terribilmente ferito in un incidente d'auto a Montreal. Il dottore aveva appena 10 minuti per prendere il treno. Non so che cosa farà se succede qualcosa a Ned. È molto legato al ragazzo. Dovrà tornare di nuovo, Miss Sterling. Spero non sia niente di grave. Oh no, niente di grave, convenne Valency. Si sentiva un po' meno umiliata. Beh, non c'era da stupirsi se il povero dottor Trent si era scordato di lei in un momento simile. Ciò nonostante, si sentiva molto demotivata e scoraggiata mentre si incamminava giù per la strada. Valency tornò a casa attraverso la scorciatoia di Lover's Lane. Non si avventurava spesso per Lover's Lane, il vicolo degli innamorati, ma si avvicinava l'ora della cena ed era impensabile arrivare in ritardo. Lover's Lane si ricollegava al paese all'ombra di grandi elmi e aceri e ben meritava il suo nome. Era difficile a qualunque ora vi si andasse non trovare delle coppiette che amoreggiavano o gruppi di due fanciulle per volta con le braccia intrecciate che si rivelavano con serietà i loro segreti. Valency non sapeva che cosa fosse a farla sentire più imbarazzata e a disagio. Quella sera trovò entrambe le cose, incontrò Connie Hale e Katie Bailey con dei nuovi vestiti di organza rosa e dei fiori infilati in modo civettuolo nelle lucenti chiome scoperte. Valency non aveva mai posseduto un abito rosa, né si era mai messa dei fiori nei capelli. Poi passò di fianco a una giovane coppia che non conosceva, intenta a passeggiare e completamente dimentica di tutto il resto. Il braccio dell'uomo circondava spudoratamente la vita della ragazza. Valency non aveva mai camminato con il braccio di un uomo attorno alla vita. Sentiva che avrebbe dovuto sembrarle scioccante, almeno avrebbero potuto serbare quel genere di effusioni per il crepuscolo. Tuttavia, non era scioccata. In un altro lampo di disperata e cruda onestà, riconobbe con se stessa di essere semplicemente invidiosa. Quando li superò, fu quasi certa che stessero ridendo di lei, che la stessero compatendo. Ah, oh, c'è quella strana e piccola zitella, Valency Sterling. Si dice che non abbia mai avuto un ammiratore in tutta la sua vita. Valency iniziò letteralmente a correre per abbandonare Lover's Lane. Mai si era sentita così terribilmente insulsa, scheletrica e insignificante. Una vecchia macchina era parcheggiata proprio nel punto in cui Lover's Lane si congiungeva alla strada. Valency conosceva bene quell'auto, almeno dal rumore. Beh, tutti a Deerwood la conoscevano. Questo prima che il nome Tyne Lizzie entrasse in circolazione. A Deerwood, perlomeno. In tal caso avrebbero saputo che quest'auto era la più piccola delle Lizzie. Sebbene non si trattasse di una Ford, bensì di una vecchia Grace Lawson, non si poteva immaginare niente di più malconcio o sconveniente. Era l'auto di Barney Smith e lo stesso Barney stava strisciando fuori da sotto la carrozzeria con la tuta imbrattata di fango. Valency gli lanciò un veloce sguardo furtivo mentre si affrettava a superarlo. Questa era soltanto la seconda volta che vedeva il famoso Barney Smith, nonostante avesse sentito un bel po' di cose su di lui nei 5 anni che aveva trascorso nella landa desolata nel Muskoka. La prima volta era stata quasi un anno prima, sulla strada del Muskoka. Anche allora stava strisciando fuori da sotto l'auto e le aveva rivolto un cordiale sorriso mentre lei lo superava. Un sorrisino stravagante che gli conferiva l'aspetto di un ognomo divertito. Non era male, a lei non sembrava male, a dispetto delle folli storie che si raccontavano su di lui. Ovviamente viaggiava come un matto per tutta Deerwood in quella terribile vecchia Grace Lawson e a degli orari in cui le persone a modo erano a letto. Spesso si accompagnava al vecchio Roaring Abel, che infestava la notte con le sue grida ed entrambi erano ubriachi fino al midollo. E tutti sapevano che era un evaso e un impiegato di banca inadempiente, un assassino datosi alla macchia, un infedele e un figlio illegittimo di Roaring Abel Gay e il padre del nipote illegittimo di Roaring Abel e un falsario e un bugiardo e un'infinità di altre cose terribili. Eppure a Valency non sembrava male. Nessuno con un sorriso del genere poteva essere male, qualunque cosa avesse fatto. Era stato in quella notte che il principe del Castello Blu, da un essere dall'espressione arcigna e dai capelli con una prematura sfumatura di grigio, beh, si era trasformato in un libertino con dei fulvi capelli di eccessiva lunghezza striati di rosso, occhi castano scuro e orecchie che spuntavano fuori dalla testa quel tanto che bastava per conferirgli un'espressione di allerta. Ma non abbastanza per poterle definire a sventola, aveva tuttavia ancora un che di severo nella mascella. Barney Snaith appariva addirittura più indecoroso del solito in questo preciso istante. Era assolutamente evidente che non si radeva da giorni e le sue mani e le sue braccia, scoperte fino alle spalle, erano nere per il grasso. Ciò nonostante stava fischiettando allegramente tra sé e sé. Sembrava così felice che Valency provò invidia nei suoi confronti. Invidiò la sua leggerezza e la sua irresponsabilità e la sua piccola catapecchia lassù su un'isola del lago Mista Wis, persino la sua sgangherata vecchia Grace Lawson. Né lui né la sua auto dovevano essere rispettabili e vivere conformemente alle tradizioni. Quando pochi minuti dopo la superò sferragliando a testa nuda, comodamente adagiato sulla sua Lizzie in una posa ardita, con i lunghi capelli che ondeggiavano al vento e con in bocca una vecchia pipa nera di dubbio aspetto, lo invidiò di nuovo. Oh, gli uomini potevano godere delle migliori opportunità, non c'era dubbio. Questo bandito era felice, qualsiasi cosa gli fosse o non fosse. Lei, Valency Stirling, rispettabile, educata fino all'ultimo grado, era infelice e lo era sempre stata. Ecco la verità. Valency giunse appena in tempo per la cena. Il sole era scomparso dietro le nubi e stava di nuovo cadendo una triste pioggerella. La cugina Stickles aveva la nevralgia. Valency doveva dedicarsi al ramendo e non c'era tempo per la magia delle ali. Oh, per favore, il ramendo non può attendere fino a domani, supplicò. Domani ci saranno altri compiti da svolgere, disse Mrs. Frederick inesorabilmente. Valency rammendò per tutta la sera e ascoltò Mrs. Frederick e la cugina Stickles parlare degli eterni e insignificanti pettegolezzi del clan, mentre sferruzzavano tristemente delle interminabili calze nere. Discussero dettagliatamente dell'imminente matrimonio della cugina di secondo grado Lillian e nel complesso approvavano. La cugina di secondo grado Lillian si sarebbe sistemata. Anche se non ha avuto fretta, disse la cugina Stickles, deve avere 25 anni ormai. Per fortuna non ci sono molte zitelle tra i nostri parenti, disse amaramente Mrs. Frederick. Valency trasalì. Si era bucata il dito con l'ago per il rammendo. Il cugino di terzo grado, Aaron Gray, era stato graffiato da un gatto e gli si era infettato il sangue del dito. I gatti sono animali assai pericolosi, disse Mrs. Frederick. Non terrei mai un gatto attorno a casa. Attraverso i terribili occhiali guardò Valency in maniera significativa. Una volta, 5 anni prima, Valency aveva chiesto se poteva avere un gattino. Da allora non ne aveva più fatto menzione, ma Mrs. Frederick sospettava che in fondo al cuore nutrisse ancora quell'illecito desiderio. Una volta Valency starnutì. Ebbene, secondo l'etichetta degli Sterling era assai scortese starnutire in pubblico. Puoi sempre reprimere uno starnuto premendo il dito contro il labbro superiore, disse Mrs. Frederick con tono di rimprovero. 9:30 in punto, e poi, come avrebbe detto Mr. Pepys, a letto. Ma la schiena dolorante della cugina di primo grado Stickles doveva essere massaggiata con l'unguento della Redfern e fu Valency a occuparsene. Era sempre lei a doverlo fare. Odiava l'odore dell'unguento Redfern, odiava l'immagine compiaciuta, splendente, corpulenta, con tanto di basette e occhiali del dottor Redfern presente sulla bottiglia. Nonostante le avesse abbondantemente sfregate, le dita conservarono il terribile odore di quella roba anche quando se ne fu andata a letto. Il giorno del destino di Valency giunse al termine e lei lo salutò così come era iniziato, in lacrime. 7. Nel piccolo prato degli Sterling c'era un cespuglio di rose che cresceva accanto al cancello. Veniva chiamato il rosaio di Doss. La cugina Georgiana lo aveva donato a Valency 5 anni prima e Valency lo aveva piantato con gioia. Amava le rose, ma naturalmente il rosaio non era mai fiorito. Ecco com'era fortunata. Valency aveva fatto tutto quanto le veniva in mente, aveva seguito i consigli di tutti i componenti del clan. Ciò nonostante il rosaio continuava a non fiorire. Prosperava e cresceva rigogliosamente con grandi rami frondosi, rimasti indenni alla ruggine e ai ragni, e tuttavia neppure un bocciolo aveva mai fatto la sua comparsa. Valency, posandovi lo sguardo 2 giorni dopo il suo compleanno, si sentì colmare di un improvviso e travolgente odio nei suoi confronti. Quell'affare non sarebbe fiorito. Molto bene, lo avrebbe tagliato. Si diresse a passo di marcia verso l'utensileria del solaio che, per procurarsi le cesoie, si accanì brutalmente contro il rosaio. Alcuni minuti dopo, un'inorridita Mrs. Frederick si affacciò sulla veranda e scorse la figlia che squarciava follemente i rami della pianta. Per metà erano già sparsi a terra. Il cespuglio appariva tristemente spoglio. Dos, cosa stai mai facendo? Sei impazzita? No, rispose Valency. Aveva intenzione di dirlo con aria di sfida, ma l'abitudine la vinse. Si espresse con tono di scusa. Io mi sono semplicemente decisa a tagliare questo cespuglio. Non è buono a niente, non fiorisce mai e non fiorirà mai. Ma non è un valido motivo per distruggerlo, disse Mrs. Frederick in modo austero. Era una pianta bellissima e piuttosto ornamentale, lo hai ridotto a una cosa triste. Le piante di rose dovrebbero fiorire, continuò Valency con una lieve ostinazione. Non discutere con me, Doss. Pulisci quel disastro e lascia in pace quel cespuglio. Chissà che cosa dirà Georgiana quando vedrà come lo hai fatto a pezzi. Davvero mi sorprendi. E averlo fatto senza avermi consultata. La pianta è mia, borbottò Valency. Prego? Che cosa hai detto, Doss? Ho detto soltanto che la pianta è mia, ripeté Valency umilmente. Mrs. Frederick si voltò senza proferire parola e si diresse in casa a passo di marcia. Oramai il male era fatto. Valency sapeva di aver profondamente offeso la madre e che non le sarebbe stata rivolta parola né attenzione alcuna per 2 o 3 giorni. La cugina Stickles si sarebbe occupata dell'educazione di Valency, ma Mrs. Frederick avrebbe mantenuto il crudele silenzio di una maestà oltraggiata. Valency sospirò e mise da parte le cesoie, appendendole con precisione al loro gancio nella stanza degli utensili. Ripulì il pavimento dai numerosi rami e spazzò via le foglie. Le labbra compresse mentre osservava il cespuglio in disordine. Aveva una grottesca somiglianza con l'agitata e scheletrica donatrice, la piccola cugina Georgiana. Senza dubbio l'ho ridotta a una cosa assai misera, pensò Valency, ma non si sentì pentita, soltanto dispiaciuta per aver offeso la madre. La situazione sarebbe stata davvero spiacevole finché non fosse stata perdonata. Mrs. Frederick era una di quelle persone che riuscivano a far ricadere la propria rabbia su tutta la casa. Le pareti e le porte non rappresentavano alcuna protezione. Faresti meglio a fare un salto in città per prendere la posta, disse la cugina Stickles quando Valency entrò in casa. Io non posso andare. Mi sento estremamente stanca questa primavera. Desidero che ti fermi alla drogheria e mi prenda una bottiglia di Redfern Blood Bitters. Non c'è niente come l'amaro Redfern per invigorire. Il cugino James dice che le pillole color porpora sono le migliori, ma io ne so più di lui. Il mio povero caro marito ha preso l'amaro Redfern fino al giorno della sua dipartita. Non farti addebitare più di 90 centesimi. Riesco ad averlo a quel prezzo giù a Port Lawrence. E che cosa hai detto alla tua povera mamma? Dimentichi forse, Doss, che puoi avere una sola madre? Per me una è sufficiente, pensò Valency con deferenza mentre si recava in città. Si procurò la bottiglia di amaro per la cugina Stickles, poi andò all'ufficio postale e chiese della propria corrispondenza al fermo posta. Sua madre non aveva una casella postale, ricevevano ben poche lettere per prendersi il disturbo. Valency non aspettava niente, a eccezione del Christian Times, l'unico giornale che leggessero. Raramente arrivavano loro delle lettere, ma a Valency piaceva restarsene in piedi nell'ufficio a osservare Mr. Carewe, il vecchio impiegato dalla barba grigia che somigliava a Santa Claus, che distribuiva la corrispondenza a coloro che la ricevevano. Lo faceva con un'aria maestosa, talmente distaccata e impersonale che sembrava non si curasse affatto di quali gioie supreme o annichilenti orrori potessero trovarsi in quelle lettere per coloro ai quali erano indirizzate. Le lettere esercitavano un certo fascino su Valency, forse perché ne riceveva così di rado. Nel suo castello blu, dei paggi in livrea oro e blu le portavano sempre delle eccitanti epistole legate con della seta o con il sigillo color cremisi. Ma nella vita reale riceveva soltanto delle frettolose note dai parenti oppure dei volantini pubblicitari. Di conseguenza rimase immensamente sorpresa quando Mr. Carewe, dall'aspetto persino più maestoso del solito, le porse una lettera. Sì, era chiaramente indirizzata a lei, vergata con un'ardente nera grafia Miss Valency Sterling, Elm Street, Deerwood. E il francobollo era di Montreal. Valency la prese con il respiro un po' affannoso. Montreal. Doveva essere il dottor Trent. Si era ricordato di lei dopo tutto. Mentre stava uscendo, Valency incontrò lo zio Benjamin e fu felice che la lettera si trovasse al sicuro nella sua borsa. Qual è, disse lo zio Benjamin, la differenza tra un somaro e un francobollo? Non lo so, zio Benjamin, qual è? Rispose Valency irrispettosamente. Uno lo lecchi con un bastone, l'altro lo bastoni con una leccata. Lo zio Benjamin proseguì, tremendamente compiaciuto di se stesso. La cugina Stickles si avventò sul Times non appena Valency tornò a casa, ma non le venne in mente di chiederle se ci fossero delle lettere. Mrs. Frederick lo avrebbe domandato, ma le sue labbra al momento erano sigillate. Valency ne fu felice. Se la madre le avesse chiesto se c'erano delle missive, lei avrebbe dovuto ammetterlo. Allora avrebbe dovuto permettere alla madre e alla cugina Stickles di leggere la lettera e tutto sarebbe stato scoperto. Il suo cuore ebbe una strana reazione mentre saliva al piano di sopra e se ne restò seduta vicino alla finestra per alcuni minuti prima di aprire la lettera. Si sentì decisamente colpevole e ipocrita. Prima di allora non aveva mai tenuto segreta una missiva a sua madre. Qualunque lettera avesse mai scritto o ricevuto era stata letta da Mrs. Frederick. Non aveva mai avuto alcuna importanza. Valency non aveva mai avuto niente da nascondere. Questa invece, e come se importava, non poteva permettere che qualcuno vedesse quella lettera. Ma mentre l'apriva, le dita le tremavano per la consapevolezza della propria cattiveria e della propria condotta niente affatto degna di un figlio. Forse le tremavano anche un po' per l'apprensione. Si sentiva abbastanza certa che il suo cuore non avesse niente di serio, ma chi poteva saperlo? La lettera del dottor Trent era proprio come lui, rude, Brusca, concisa, essenziale. Il dottor Trent non girava mai attorno alle parole. Cara Miss Sterling. E poi una pagina di scrittura nera e inconfutabile. Valancy sembrò leggerla in un soffio. La fece ricadere in grembo, il volto bianco come uno spettro. Il dottor Trent le diceva che aveva una forma molto pericolosa e fatale di cardiopatia, angina pectoris, con l'evidente complicanza di un aneurisma, qualunque cosa esso fosse, e per giunta all'ultimo stadio. Diceva, senza mezzi termini, che non c'era niente che si potesse fare per lei. Se avesse avuto grande cura di se stessa, avrebbe potuto vivere per un anno. Poteva tuttavia morire in qualsiasi momento. Il dottor Trent non si preoccupava mai di trovare degli eufemismi. Doveva fare attenzione a evitare qualunque emozione e gli intensi sforzi muscolari. Doveva mangiare e bere con moderazione, non doveva assolutamente correre, doveva fare le scale e camminare in salita con grande cautela. Qualunque improvviso sobbalzo o shock poteva esserle fatale. Doveva procurarsi quanto nella prescrizione da lui acclusa e portarlo sempre appresso, badando di assumerne una dose in qualunque momento l'attacco si presentasse. E poi era sinceramente suo bla bla HP Trent. Valancy restò a lungo seduta vicino alla finestra. Fuori il mondo era sprofondato nella luce di un pomeriggio primaverile, il cielo era incantevolmente blu. Le brezze profumavano e liberavano delle amabili e delicate foschie blu sul fondo di ogni strada. Più avanti alla stazione un gruppo di ragazze stavano aspettando un treno. Valancy riuscì a udirne le gaie risate mentre chiacchieravano e scherzavano. Il treno strepitò più e più volte, ma niente di tutto questo era reale, niente, tranne il fatto che le restava soltanto un altro anno da vivere. Quando si stancò di stare seduta alla finestra, si alzò e si distese sul letto, lo sguardo fisso sul soffitto crepato e scolorito. Quel curioso stordimento che segue un tremendo shock si impossessò di lei. Non provava niente, a eccezione di uno stupore e di un'incredulità sconfinata, dietro i quali c'era la convinzione che il dottor Trent sapesse il fatto suo e che lei, Valancy Sterling, che non aveva mai vissuto, adesso stesse per morire. Quando suonò il rintocco per la cena, Valancy si alzò e con la forza dettata dall'abitudine scese meccanicamente da basso. Si meravigliò che le avessero permesso di restarsene da sola per così lungo tempo, ma naturalmente in quel momento la madre non le avrebbe prestato alcuna attenzione e Valancy fu grata per questo. Pensò che la lite per la pianta di rose fosse stata veramente provvidenziale, come Mrs. Frederick avrebbe detto. Non riusciva a mangiare niente, ma sia Mrs. Frederick che la cugina Stickles ritenevano fosse perché era meritatamente infelice per via dell'atteggiamento materno. La sua inappetenza non fu quindi oggetto di commenti. Valancy si sforzò di mandar giù una tazza di tè e poi restò seduta a osservare gli altri che mangiavano, con la strana sensazione che fossero trascorsi anni da quando aveva fatto loro compagnia a tavola. Si ritrovò a sorridere segretamente al pensiero di quale shock avrebbe provocato se soltanto lo avesse desiderato, se soltanto avesse loro riferito quanto c'era scritto nella lettera del dottor Trent. Ci sarebbe stato un tale trambusto, come se, pensò Valancy amaramente, a loro fosse veramente importato qualcosa di lei. La domestica del dottor Trent oggi ha avuto sue notizie, disse la cugina Stickles così improvvisamente che Valancy sussultò per il senso di colpa. Esisteva la telepatia? Mrs. Judd ha scambiato due parole con lei su in città. Pensano che suo figlio si ristabilirà, ma il dottor Trent ha scritto che in tal caso lo porterebbe all'estero non appena fosse in grado di viaggiare. Non tornerebbe prima di un anno. Questo avrà ben poca importanza per noi, disse Mrs. Frederick maestosamente. Non è il nostro medico, non gli permetterei. A questo punto guardò, o sembrò guardare in modo accusatorio proprio verso Valancy, di curare un gatto ammalato. Posso salire a distendermi? Chiese debolmente Valancy. Io ho l'emicrania. Che cosa ti ha provocato l'emicrania? Chiese la cugina Stickles, visto che Mrs. Frederick avrebbe mantenuto il silenzio. A Valancy non era permesso avere il mal di testa senza interferenze, pertanto quella domanda era inevitabile. Non soffri di emicranie? Spero tu non stia per sviluppare la parotite. Ecco qua, prova a prendere un cucchiaio di aceto. Sciocchezze! disse Valency rudemente mentre si alzava da tavola. In quel momento non le importava di essere rude, aveva dovuto mostrarsi così gentile per tutta la vita. Se ciò fosse stato possibile, la cugina Stiglitz sarebbe impallidita. Si limitò tuttavia a divenire ancora più giallastra. Sei sicura di non avere la febbre, Doss? A me sembra di sì. Alzati, vai subito a letto, disse la cugina Stiglitz profondamente allarmata, e io salirò a massaggiarti la fronte e la nuca con l'unguento Redfern. Valency aveva raggiunto la porta, ma si voltò. Non mi farò massaggiare con l'unguento Redfern. La cugina Stiglitz la fissò boccheggiando. Che cosa? Cosa intendi? Ho detto che non ho intenzione di farmi massaggiare con l'unguento Redfern, ripeté Valency, quell'orrida robaccia appiccicosa. Inoltre ha il più disgustoso odore di qualsiasi unguento io abbia mai visto. Non serve a niente, voglio essere lasciata in pace. Ecco tutto. Valency uscì dalla stanza lasciando la cugina Stiglitz atterrita. Ha la febbre? Deve avere la febbre! Esclamò la cugina Stiglitz. Mrs. Frederick continuò a cenare. Che Valency avesse o non avesse la febbre non aveva importanza. Valency si era resa colpevole di impertinenza nei suoi confronti.